A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Luca Tesconi, 9.7, prima medaglia italiana di Londra 2012. Bravissimo Luca, ha fatto una gara veramente eccezionale. E allora la prima medaglia per l'Italia arriva dalla Toscana, questa Olimpiade di Londra, cominciata proprio oggi con le gare della prima giornata, prima medaglia azzurra centrata da questo trentenne toscano Luca Tesconi all'esordio nel pistola 10 metri uomini, medaglia d'argento dietro il sudcoreano Jin Jong-ho, una medaglia che era un po' attesa dopo le belle prove di Luca Tesconi, uno dei nostri atleti azzurri che ci hanno regalato queste prime gioie. Ma è una bella prima giornata questa, anche perché nella scherma bene le fiorettiste, due in semifinale già nel fioretto donne, con Enrico e Di Francesca che sono in semifinale, e poi aspettiamo Valentina Vezzali, anche lei, per andare in semifinale. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia. 800 24 00 24, il nostro numero verde per chiamarci e commentare questa bella prima giornata di gare dell'Olimpiade. Parleremo però naturalmente anche di calcio, poi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Formula 1, i vostri messaggi invece al 349 238 6666. Ma noi andiamo subito a Londra dal nostro Dario Ricci per capire invece quello che è successo a un altro dei nostri atleti che erano lì per arrivare a vincere una medaglia. Dario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno da Londra. Niente da fare per Elio Verde nella categoria 60 kg di judo, perché il judoka di Aversa, classe 1987, è arrivato a giocarsi il bronzo con il brasiliano Felipe Kitadai, ma ha perso proprio al golden score. Il colpo decisivo del brasiliano ha costretto il nostro Verde ad accontentarsi della cosiddetta medaglia di legno. Claudio, è stato un torneo orgoglioso quello di Verde, che poi però si è arenato nella semifinale contro il giapponese. E intanto scusami Dario, ti interrompo, perché anche Valentina Vezzali ha raggiunto la semifinale, quindi ci sono tre azzurre nella semifinale, anche da lì arriveranno delle belle gioie probabilmente questa sera alla finale, Dario. Eh sì, anche perché tra l'altro dallo stesso lato del tabellone c'è questo duello fratricida fra Enrico e Vezzali, che quindi ci garantisce già un bottino già ben ricco nel medagliere. Tra l'altro sfida che ripropone anche quello che è stato una polemica di questi ultimi mesi fra le due schermitrici, no? Con la Enrico che proprio in occasione degli europei ha urlato in faccia a Valentina, battendola, la propria rabbia, perché Valentina in una sua autobiografia aveva quasi evidenziato di aver perso apposta ai mondiali parigini del 2010 per controllare Enrico, per non avere un confronto diretto con la Di Francesca in finale. Insomma, c'è ruggine, come in tutte le buone famiglie si dice a parole, che sì, tutto sia stato chiarito, però poi vedremo fra qualche quarto d'ora in pedana, e quello è il modo più chiaro per regolare i conti. Molto bene anche Elisa Di Francesca, che ha battuto per 15-9 la Sugawara, e che anche nei turni precedenti ha dato veramente prova di grande reattività, rimontando anche alcune situazioni difficili, e prova assolutamente confortante dopo una stagione che invece era stata vissuta in chiaroscuro. Vuol dire che Elisa ha saputo ricaricare le pile nel modo migliore proprio per l'appuntamento più importante. E invece spiace proprio per Elio Verde, che col quale hai aperto, poteva essere una medaglia a portata di mano anche quella. Sicuramente la medaglia di legno lascia sempre l'amaro in bocca, però dà anche l'idea della vitalità di un movimento. Tra l'altro il judo è risorsa ormai storica del nostro medagliere, per cui è importante essere al vertice, soprattutto essere a questo livello, a livello olimpico, garantisce una presenza, una continuità che a volte paradossalmente è più importante, Claudio, tu che conosci bene il mondo olimpico e anche paralimpico, delle stesse medaglie. Ah sì, questo sicuramente. Andiamo invece in piscina, Dario, perché è cominciata oggi l'avventura anche dei nostri nuotatori. Marin meglio di Phelps, Dario, nei 400 va in finale con un tempo migliore. Eh sì, sesto tempo per Luca Marin, rigenerato, l'avevamo già visto al Sette Colli di Roma. Ha ritrovato la serenità giusta, la voglia giusta, dimenticate polemiche, amori e disamori. Appena un anno fa stavamo raccontando le acque infuocate di Shanghai, no? Del triangolo amoroso delle Bermuda tra Luca, Federica e Filippo Magnini. Sembrano acque totalmente passate. Questo è un Marin che entra in finale con il sesto posto, Phelps entra solamente con l'ottavo, ma c'è anche chi è andato peggio, perché campioni come Laszlo Cech, Park e Biedermann sono addirittura fuori, quindi sicuramente vedremo in finale tempi diversi, ritmi diversi, ma Luca ha dimostrato di esserci e già merita un grande applauso. Non è bastata invece Federica Pellegrini per raggiungere la finale nella staffetta, però questo era un test per la Pellegrini, invece era un puro allenamento per Federica. Sì, è vero. Federica ha fatto dall'altro un ottimo tempo, un buon tempo di frazione, non è bastato per portare la staffetta in finale. È chiaro che siamo in queste ore nella fase delle ipotesi, no? Come ieri sera ci chiedevamo, ma ce l'avrebbe fatta Valentina Vezzali, ce la farà Valentina Vezzali a gestire la fatica di una cerimonia d'apertura e a portare in alto quel tricolore anche in pedana dopo averla fatta nella cerimonia? Beh, oggi Valentina ci ha dato una risposta. Stesse domande, stessi interrogativi possiamo farne intorno a Federica, che è apparsa comunque molto determinata, già un po' chiusa in quella sua bolla in cui cerca la massima concentrazione per arrivare al risultato. Domani è il momento della verità. L'occasione di oggi è stata buona per sciogliere il ghiaccio, per provare l'acqua, per prendere i riferimenti giusti in una piscina anche molto particolare, con questo corpo architettonico centrale panciuto, sembra la pancia di una balena, Claudio, molto suggestivo, ma è sicuramente singolare anche per gli atleti che devono trovare i giusti riferimenti. Domani è il tempo della verità e quindi poi devo dire, parlando con Luca Sacchi, ti rubo un altro minuto, le sensazioni che un esperto come Luca aveva guardando la Federica di oggi non erano positivissime, questi erano i commenti che facevamo, però chiaramente sappiamo anche quanto sia un agonista Federica, e quindi come soprattutto lo scenario mentale di domani sia assolutamente diverso. E allora andiamo a sentire Federica Pellegrini, che appunto ha partecipato a questa staffetta 4%, ma solamente un po' per allenamento, per prendere confidenza con la piscina di Londra. Noi sapevamo che sarebbe stato molto difficile questa mattina, soprattutto in questa staffetta veloce, che noi proprio in Italia non è che siamo, non abbiamo grandi passati da velocisti. Quindi con l'italiano comunque. Sì, no, quindi noi il massimo che potevamo fare l'abbiamo fatto, quindi va bene così. E il commento anche per Luca Marin, in finale nei 400 misti, 4:13:02 il suo tempo, per andare a podio servirà scendere un pochino, 4:10. Sentiamo come ha commentato la sua batteria. No, sono contento che comunque l'obiettivo all'inizio stagione era cercare di andare a venire qua. Dopo essere riusciti a venire qua abbiamo detto proviamo a fare la finale. Fortunatamente siamo riusciti, adesso c'è pomeriggio è una bella lotta. Ho visto che l'Asolo è rimasto fuori, però comunque per il podio è dura, anche perché avendo visto il giapponese stamattina, secondo me il podio ormai è scritto, però sai, pomeriggio, adesso cercheremo di riposare, comunque la fortuna è anche, comunque le finali sono le 7:30, quindi abbiamo tempo di recuperare. Solitamente dovrebbe venire meglio a pomeriggio, ragazzi, io quello che volevo raggiungere l'ho raggiunto. E intanto Italia in semifinale di tiro con l'arco, e invece è andata male, Dario, per quanto riguarda il ciclismo. È andata male soprattutto a Cavendish, era una vittoria che era quasi già scritta per lui. Invece Alexander Vinokourov alla fine della carriera è campione olimpico, Uran Uran il colombiano secondo posto, un po' inaspettato, e invece i nostri italiani con Nibali in testa che non sono riusciti ad andare a medaglia. Certo, diciamo che il rammarico è soprattutto quello di Cavendish e del milione di persone che oggi hanno circondato il percorso fino all'arrivo sul De Mol davanti a Buckingham Palace, perché il colpo d'occhio è stato straordinario. Certo, così di primo acchito, Claudio, non possiamo non sottolineare che forse proprio Vinokourov, con la storia controversa che ha avuto in tema doping, le squalifiche, le polemiche, l'atteggiamento sempre direi poco collaborativo, a dir poco, non so quanto brilli in quest'albo d'oro, ma per carità, insomma, fino a provetta contraria è assolutamente degno del titolo olimpico. Comunque quella medaglia ce l'ha lui. Dario, ci risentiamo prima di chiudere, e buona Londra naturalmente. This will be the third Olympiad. Third London Olympiad. My great grandfather opened the 1908 Games at White City. My father opened the 1948 Games at Wembley Stadium. And later this evening, I will take pleasure in declaring open the 2012 London Olympic Games at Stratford in the east of London. E allora questa era l'apertura per la regina Elisabetta, che ha ricordato anche le Olimpiadi precedenti, aperte naturalmente dai suoi avi. È stata una bella cerimonia, una cerimonia molto diversa da quella che abbiamo vissuto a Pechino, e adesso magari ne parleremo. Vi ricordo, fra un po' parleremo naturalmente, perché è giusto anche così, lo sport non si ferma soltanto alle Olimpiadi, ma anche di calcio, con pareggio dell'Inter, giocato al Celtic Park di Glasgow, 1-1 è finita la partita con i Celtics, Commons che ha segnato nel finale del primo tempo, e poi prodezza di Palacio che ha riequilibrato il match, mentre la Juventus è 0-2, conduce con l'Hertha di Berlino, Matri e poi Krasic. Ma torniamo alle Olimpiadi, abbiamo sentito le parole della regina Elisabetta in questa apertura, in questa, ripeto, bella cerimonia vissuta, spettacolare, coinvolgente e molto emozionante. Come è stata per te invece, Andrea Zorzi? Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua, ben ritrovato. Non poteva mancare anche la tua voce qui a Radio 24, la tua voce da Londra, visto che stai vivendo. Vuoi un'opinione sulla cerimonia d'apertura? Ma sì, ne abbiamo parlato, abbiamo sentito adesso la regina Elisabetta aprire. È stata vista in televisione, è stata una cerimonia molto emozionante, molto anche divertente. Io ho trovato la seconda parte, dopo la sfilata, molto molto bella. Sulla prima ho fatto un po' di fatica, nel senso che hanno fatto tante cose un po' velocemente, con alcuni passaggi video che erano pensati per essere una cerimonia anche televisiva. Ovvio che vedere regina Elisabetta che diventa una Bond girl è qualcosa che nessuno si aspettava. Però ho apprezzato molto di più questa seconda parte, che mi è sembrata un po' più fluida, un po' più armonica. Molto bello il braciere, che è uno dei più belli in assoluto, un momento straordinario, e poi molto bello anche il discorso semplice ma sentito di Sebastian Coe. Andrea, andiamo sulla parte invece di gare. Tu naturalmente commenterai la pallavolo per Sky. Abbiamo cominciato direi abbastanza bene. Quell'abbastanza si riferisce un po' al ciclismo, un po' al judo, che forse ci poteva dare qualcosa di più. Per la verità mi hanno spostato. E adesso sono qui al centro stampa, l'ABC, nel senso che stiamo un po' facendo un po' di lavoro con la lavagna tattica, e quindi ho potuto seguire con attenzione sia la gara di ciclismo, ma soprattutto le nostre ragazze italiane della scherma, che in 5 minuti hanno permesso di vincere almeno 3 medaglie, che non ci dispiace, sia un bellissimo quarto, una bellissima semifinale con 3 bandiere italiane. Poi non facile, perché la Vezzali ha vinto ai tempi supplementari, ha vinto con la tunisina Bubacri. Bella anche l'argento di Luca Tasconi alla pistola di 10 metri, però come tu ben sai in questi eventi con mille discipline al mattino bisogna fare una scelta. Si battezza una disciplina, è quella che sceglie, sì. Perché sennò si naviga nel nulla e almeno io non riesco a seguire quasi nulla. Quindi stamattina ciclismo e scherma per le mie scelte. Beh, l'Olimpiade è quella, però hai fatto delle scelte buone, direi, per quanto riguarda la scherma, ottime, per quanto riguarda il ciclismo. È stata bella anche questa sorpresa di non vedere Cavendish. Lì c'era questo milione di persone che stavano aspettando solo lui. Un milione, hai ragione, un milione, e poi si è vista questa scena, questi quattro atleti della Gran Bretagna sempre in fila a tirare come dei pazzi a cercare di riagguantare i fuggitivi, non ci sono riusciti e poi alla fine tutto ci si aspettava, ma come spesso accade nelle corse di un giorno, e quella olimpica non fa eccezione, una sorpresona perché Binocuro veramente nessuno pensava potesse diventare campione olimpico. Una bella gara, un bel circuito, peccato per Cancellara che è caduto, sì, si è ritirato, si è fatto anche molto male, per il resto questo è il ciclismo e quindi insomma Cavendish il suo favorito stavolta non è stato azzeccato. Andrea, prima di lasciarti andare, andiamo sugli sport di squadra, non ci sono i due più importanti, più seguiti in Italia, che sono il calcio e il basket, la pallavolo sta lì col basket naturalmente, quanto a seguito addirittura con due squadre, quindi ci racconti un po' quali sono le aspettative. Addirittura pensiamo a quattro squadre, adesso che consideriamo anche le due coppie del beach. Ah certo, naturalmente. La nostra grande famiglia. E poi abbiamo, come dire, i nostri amici della pallanuoto a cui teniamo moltissimo, quindi insomma, olimpicamente parlando, siamo molto felici di essere ci qua. Stiamo. E anche che per noi della pallavolo l'Olimpiade non è densissima di ottimi ricordi, ma questo riguarda una vecchia generazione, quindi adesso sono speranzoso che i ragazzi possano fare il loro meglio. Le donne sono solo un po' più imprevedibili, potrebbero fare veramente tutto, nel bene e nel male. Tra poco debuttano con la Repubblica Dominicana, dovrebbe essere un incontro più che abbordabile, scelte di Barborini abbastanza coraggiose sulla formazione in campo, tra qualche ora sapremo come inizia la prima partita della nostra nazionale femminile a queste Olimpiadi. Chiudiamo con una cosa invece che riguarda più anche l'aspetto sociale che ha lo sport. Ieri secondo me è stata straordinaria l'ingresso del Sudafrica con Caster Semenya a portare la bandiera, con subito dietro di lei c'era Oscar Pistorius. Le scelte del Sudafrica sono state da questo punto di vista secondo me eccezionali. Sì, lo sport è davvero un grandissimo veicolo, in alcuni casi è un'opportunità per toccare temi e valori straordinari, da giornalisti possiamo dirlo, talvolta corre il rischio di essere un po' di retorica, un po' di ipocrisia. Nel caso dell'Olimpiade di ieri mi pare che questo rischio fosse scampato completamente, poi occorre sempre avere un po' di attenzione perché alcuni veri grandi valori che possono essere rappresentati anche con dei gesti simbolici devono poi essere confermati, e quindi questo è un po' il rischio di ciò che riguarda la comunicazione di massa, la televisione e quant'altro. Per il resto nulla è così forte, così potente come vedere, come dicevi te, il Sudafrica che fa una scelta di questo genere, o i sette ragazzi, giovani atleti senza nome, che danno il via al braciere olimpico col messaggio forte che la prossima generazione sarà protagonista. Grazie Andrea, grazie, ciao, buona voi. Olimpiade naturalmente, buona Olimpiade, ciao, buona Olimpiade ad Andrea Zorzi, un'Olimpiade che, vi ripeto, iniziata bene con questa prima medaglia d'argento nella pistola 10 metri uomini con Luca Tesconi, che è andata a vincere appunto l'argento dietro al coreano Jin Jong-ho, e poi almeno due medaglie che possono arrivare dal fioretto donne con tre delle nostre rappresentanti, la Vezzali e la Regola di Francesca, che sono giunte in semifinale. Nel tiro con l'arco Italia in semifinale, abbiamo già accennato, gli azzurri hanno battuto 220 a 216 i cinesi, affronteranno la vincente fra Messico e Francia, squadra azzurra composta da Michele Frangilli, Marco Galiazzo e Mauro Nespoli. Nell'altra semifinale si affrontano Stati Uniti e Corea. C'è già però purtroppo il primo caso di doping, primo stop per l'atleta, anche qui come spesso accade nel sollevamento pesi, è l'albanese Isen Pulako, che avrebbe dovuto gareggiare nel sollevamento pesi categoria 77 kg, è stato escluso dai giochi per la positività a un anabolizzante in un test effettuato il 23 di luglio scorso, e per lui c'è questo triste primato, primo atleta escluso per doping a Londra con il nuovo sistema di controllo che è ora in mano al CIO. Naturalmente per lui si prevede la squalifica, probabilmente quella di 2 anni, come naturalmente capita in questi casi. Bene, vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Per quanto riguarda invece i vostri messaggi SMS, 349 238 6666, ce ne è arrivato uno che riguarda Alex Schwarzer. Dice: non condivido la strategia di Schwarzer di non correre da 20 km per risparmiare energie. La gara è settimana prossima, ma Schwarzer ha rinunciato a questa, almeno a quanto ha fatto sapere, anche perché è sopraggiunto un raffreddore, ha avuto uno stop nella preparazione di 3 giorni, quindi insomma anche per motivi fisici, non soltanto per quanto riguarda una strategia di gara. Torneremo a parlare naturalmente di Olimpiadi fra poco, ci collegheremo di nuovo con il nostro Dario Ricci a Londra. Apriamo una pagina anche calcistica, perché il calcio non si ferma, perché ci sono le Olimpiadi, come ben sa Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport, che è con noi. Buongiorno Mirko. Ciao, buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno. No, dicevamo, non si ferma il calcio perché ci sono le Olimpiadi, anche se lì non ci siamo arrivati, Mirko, ma naturalmente l'interesse dei tifosi è proprio molto naturalmente legato a quello che è lo sport più seguito. Mirko, allora, vogliamo fare, visto che siamo in chiusura della settimana, un piccolo bilancio di quello che è fino adesso il mercato. Intanto vi ricordo la vittoria della Juventus che ha battuto l'Hertha a Berlino 2-0, Matri e Krasic, c'è poi il pareggio dell'Inter col Celtics, con i Celtics, rete di Palacio. Mirko. Sì, diciamo che sono squadre ancora incomplete, diciamo che la Juve forse è quella più avanti nella costruzione della squadra, ma ancora gli manca il pezzo pregiato, il top player, il grande attaccante, chiamiamolo come vogliamo. Il Milan chiaramente è una squadra che non si può presentare così all'inizio della stagione, non si presenterà di certo così all'inizio della stagione, quindi è ancora tutta una squadra da scoprire. La stessa Inter mi sembra che abbia buchi preoccupanti, soprattutto in mezzo al campo, dove non si è deciso ancora stranamente di rinnovare e di ringiovanire, Guarin a parte. Il vero problema dell'Inter era in mezzo al campo e ancora non si è intervenuto. Io credo che se l'Inter risolvesse il problema in mezzo al campo con un paio di bei mastini veri, giovani, freschi, e allora potrebbe tornare a infastidire fin da subito la Juventus, che invece è la squadra in questo momento migliore in assoluto, costruita meglio, forte in tutti i reparti e con ancora margini importanti, perché credo che la Juve presto arriverà ad Armero, presto arriverà al top player, Jovetic, Van Persie o chiunque altro sia, e probabilmente presto dovrà, non ce lo auguriamo, non lo auguriamo a Bonucci naturalmente, potrebbe, ecco, diciamo così, dover intervenire anche in difesa per tappare un buco improvviso. Ecco Mirko, c'è questa possibilità anche di patteggiamento sia per Bonucci che per Conte potrebbe essere la soluzione fra virgolette più logica. Bonucci comunque, anche cioè patteggiando gli anni che infatti penso che Bonucci potrebbero diventare 2 anni invece di 3, esatto. Insomma, quindi non è che gli convenga tantissimo. Penso che Bonucci non patteggerà, Antonio Conte probabilmente patteggerà per una questione di strategia proprio anche legale, decisa con i suoi legali, anche se lui è molto amareggiato, continua a sostenere la sua totale estraneità a questa vicenda, continua a manifestare molto, cioè molto combattuto, perché lui in realtà, se non sono, ci ho parlato qualche volta, lui vorrebbe andare là e combattere legalmente e dimostrare che non c'entra niente neanche con l'omessa denuncia, però insomma il rischio è molto alto e quindi potrebbe essere una strada un po' più saggia, più logica, quella di andare a patteggiare, e diciamo che quasi certamente patteggerà. 800 24 0024, il nostro numero verde, 349 238 6666, invece per i vostri sms. Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport qui con noi a parlare di calcio. Abbiamo detto della Juve, accennavi al Milan che comunque non si presenterà così. Questa suggestione Kakà ti intriga, Mirko? Ma guarda, insomma, i cavalli di ritorno non è che hanno sempre un gran successo, però forse in questo momento un nome come Kakà servirebbe anche da un punto di vista psicologico, ambientale. Il Milan ha perso tutti i suoi capitani, ha perso tutti i suoi senatori, tutti i suoi invincibili. Forse una figura come quella di Kakà potrebbe tenere alta un certo tipo di identità. Il giocatore, se sta bene, è un giocatore fantastico. Il problema è capire in che condizioni sia dopo una parentesi spagnola per nulla felice e neanche troppo continua. Tecnicamente sì, mi convince, comunque è un giocatore che sa fare tutto là davanti, può giocare a seconda punta, può giocare a trequartista, ripeto, un giocatore che se sta bene è un grandissimo giocatore. Va valutata bene, credo che comunque al di là dell'aspetto tecnico davvero Kakà possa servire anche per ridare un po' più di entusiasmo a un ambiente che ne ha perso tanto, perché al di là dei giocatori arrivati a fine contratto e magari anche a fine corsa di una carriera straordinaria, ci sono state le ultime due cessioni traumatiche, quelle di Ibrahimovic e Thiago Silva, prima assolutamente tolti dal mercato e poi venduti in 4-4-8. Insomma, chiaramente non è stato un bel periodo per il popolo rossonero. In questo senso credo che Kakà possa servire anche da un punto di vista ambientale a ridare un po' di entusiasmo. Secondo te ci sono poi possibilità di altri arrivi di alto livello al Milan? Anche, devo dire che secondo me lì davanti tutto dipende dalle condizioni di Pato alla fine. Poi se tu hai un Pato che ritorna a stare bene, a giocare come giocava nei suoi primi anni, può avere un senso anche quello che è successo con il Paris Saint-Germain. Certo, questa è un'incognita. È un'incognita, hai detto comunque bene, Pato è un potenziale fuori classe, Pato quando sta bene segna, ha una media partite giocate gol che è fantastica ed è eccezionale, e in questo senso potrebbe anche al Milan là davanti, potrebbe anche bastare una prima punta pura, il matri della situazione, ecco, tanto per tornare a quello che circola negli ambienti di mercato, perché Pato in effetti è un grandissimo giocatore, perché se arriva Kakà comunque là davanti garantisce un certo tipo di pericolosità, perché il Shaarawy è un talento che adesso deve sbocciare, è un grandissimo talento. Però piacevole da vedere il Shaarawy, Ma molto, molto. infatti io penso che sia arrivato il momento di dare anche spazio. Assolutamente d'accordo. Il Milan ha giovani importanti, diciamo che tu perdi delle certezze e va incontro a delle incognite. Però cambi un po' la strategia rispetto al passato, Mirko. Esatto, io credo che il Milan debba però invece, ecco, per essere competitivo realmente debba trovare qualcosa di importante in difesa, di veramente importante in difesa, perché Thiago Silva, cioè non è partito solo Thiago Silva, prima anche Nesta, il giocatore che magari non ti garantiva 40 partite all'anno, certo, ma le 20-25 che giocava erano partite di altissimo livello, quindi Milan ha perso una coppia eccezionale là dietro, e quindi serve un difensore molto importante, oltre secondo me a un altro centrocampista di grande livello, perché anche a centrocampo il Milan ha perso molto, sia a livello di esperienza, sia a livello di peso, sia a livello di qualità. Paradossalmente tu hai perso il tuo giocatore più in vista in attacco, però è il settore del campo dove meno ti devi impegnare, probabilmente devi impegnare molto di più negli altri due. Sì, no, Milan comunque, guarda, in generale è una squadra da completare, guarda, il discorso è questo, è una squadra che in questo momento ha una discreta base, mancano quei giocatori che però la possono tenere ai livelli più importanti, che poi sono i primi tre posti, perché in questo momento, soprattutto in questo momento, le grandi squadre non si possono permettere di restare fuori dalla Champions League. Ripeto, io credo che in attacco il Milan dovesse arrivare Kakà, dovrebbe andare a cercare semplicemente una prima punta, una punta di peso che dia delle soluzioni alternative durante la stessa gara, e invece al centrocampo in difesa bisogna intervenire con molta pesantemente. Esatto, bisogna intervenire pesantemente. E Mirko, un altro cantiere aperto è quello dell'Inter, fra l'altro un cantiere aperto un po' strano, no? Perché sì, si inseguono, si punta su Lucas, non si capisce bene la situazione di Pazzini, o meglio si capisce ma non si capisce com'è nata e come andrà a finire, e anche qui non manca moltissimo l'inizio del campionato. No, soprattutto l'Inter intanto il 2 o 3 di agosto è impegnata già nel turno di Europa. Fra l'altro. Quindi sono partite sì, non proibitive ma neanche facilissime, cioè non è proprio una passeggiata andare a Spalato e giocarsi un turno preliminare contro l'Hajduk di Spalato, soprattutto a inizio agosto, quindi quando la stagione è tutt'altro che nel pieno. Sì, l'Inter è un cantiere aperto, ripeto, io penso che l'Inter abbia necessità di rafforzarsi in mezzo al campo, ha bisogno di freschezza in mezzo al campo, questo hanno detto le ultime due stagioni, soprattutto l'ultima stagione. È arrivato Mudingai, è un bel, come si dice, cagnaccio in mezzo al campo, ma non è un ragazzino, lì in realtà servirebbero un paio di giovani di quelli belli, tosti, forti. È bello il titolo che avete fatto oggi sulla Gazzetta dello Sport, Mudingai spacca legna, appunto, di domanda. Sì, no, ma va bene. Sì, servono, sì, assolutamente. Servono questi giocatori, magari insomma bisognerebbe andare a cercare giocatori un po' più freschi, un po' più giovani, un po' più di prospettiva. Per il resto l'Inter non è una squadra messa malissimo, perché Milito può ancora reggere un paio di stagioni, quanto sicuramente la prossima, ad altissimi livelli, ed è uno che la palla gli arriva lì, la butta dentro. Palacio è un ottimo giocatore, un grande giocatore, e sì, magari c'è l'incognita Coutinho, c'è l'incognita Alvarez, però insomma, sia Coutinho che Palacio abbiamo visto che in questo inizio di preparazione stanno andando benissimo. Sì, Palacio è un giocatore affidabile, lo conosciamo anche ad alti livelli, insomma, nel nostro campionato ha dimostrato di essere uno che la palla la sa buttare dentro, comunque gioca bene. Coutinho, vediamo, siamo ancora io il calcio di luglio agosto, insomma, ci credo fino a un certo punto, ecco. Dare per scontata l'esplosione di Coutinho, no, soprattutto se sei l'Inter, perché l'Inter dopo l'ultima stagione è chiamata a ritornare ai vertici immediatamente. Per tornare ai vertici servono giocatori molto affidabili, molto affidabili. Una domanda che è arrivata per te al 349-238-6666, il nostro numero per inviare i vostri messaggi SMS, 800-24-0024, invece il nostro numero verde. Un ascoltatore che chiede: Cassano che fa? Quali potrebbero essere le sue destinazioni, magari all'estero o al Napoli, se De Laurentiis non prenderà Giuseppe Rossi? Non lo so, Cassano in questo momento non vedo soluzioni oltre il Milan, nel senso che lui sarebbe tornato volentierissimo alla Sampdoria, ma lì la porta è chiusa per le questioni avute con Garrone, non è ancora il momento del perdono totale, evidentemente. Ed è un giocatore che, cioè, e lui stesso insomma non vorrebbe staccarsi, cioè lui vorrebbe tornare a Genova o quantomeno non staccarsi da Milano. Se c'è l'ipotesi Inter, che non trova ancora conferme ufficiali, ma anche questo è normale, però ripeto, in questo momento non vedo soluzioni semplici extra Milan per Cassano. Ti intriga l'arrivo di Zeman sulla panchina Roma? Io ho seguito molto bene il campionato di Serie B l'anno scorso, devo dire che lo scossone Zeman con il Pescara ha dato tanta vitalità a quel campionato. Certo, come al solito per Zeman la prova è ad altissimi livelli. Sì, però io sono molto felice che Zeman sia tornato ad alti livelli, perché quando le squadre di Zeman capisci che sono squadre di Zeman, e non succede con nessun allenatore. Ho dovuto Zeman consente alla Roma di dare anche un seguito al discorso aperto con Luis Enrique, quindi a non voltare completamente pagina, a non rinnegare completamente un progetto, perché Zeman è un allenatore, diciamo, molto simile per filosofia di gioco a Luis Enrique, anche se poi diciamo che cambia il modo di arrivare alla porta. Luis Enrique ci arriva col possesso palla, col gioco orizzontale, Zeman preferisce verticalizzazioni molto più decise e repentine. Però insomma la filosofia è quella, una squadra molto offensiva, una squadra spettacolare. Io credo che Zeman non abbia avuto le possibilità che ha di fatto meritato nella sua carriera. Ora diciamo che nella parte finale della carriera ha l'occasione di tornare in una Roma che vuole a sua volta tornare ad alti livelli. Io spero, io sono convinto, ma sono un tifoso, quindi non sono molto obiettivo. Spero che la Roma faccia un grande campionato. Sono un tifoso di Zeman naturalmente, non della Roma. Sì, no, ma questo l'abbiamo capito, ma giustamente, ma anch'io, perché devo dire, fra l'altro, secondo me per la nostra Serie A un po' di vita di quella che sa dare Zeman, di divertimento, anche di tanti gol. Poi alla fine è vero che insomma magari lui sulla fase difensiva non insiste proprio tantissimo, però è divertente da vedere. Comunque non sottovalutiamo l'impresa che ha fatto col Pescara, cioè il Pescara l'ha portato in Serie A. Assolutamente, assolutamente. Ed è un'impresa straordinaria, credo, dei giocatori quasi tutti sconosciuti, perché adesso parliamo tutti di Verratti, di Immobile, di Insigne, però insomma se li ha presi lui, non è che se li hanno presi altre squadre prima dello scorso campionato. E oggi parliamo di un Verratti che era stato preconvocato per l'europeo da Prandelli, Insigne che probabilmente sarà presto convocato da Prandelli per il nuovo corso, e tutti i giocatori che lui in Serie B li ha resi grandi in Serie B. E la stessa cosa gli era riuscita col Foggia, perché anche nel Foggia poi anche dal Foggia erano usciti giocatori meravigliosi come Beppe Signori, nazionali poi come lo stesso Di Biagio. Insomma è un allenatore secondo me eccezionale sul campo, anzi è proprio forse l'unico vero allenatore che c'è in circolazione, e cosa che non guasta, le sue squadre danno spettacolo, sono divertenti, sì, indubbiamente. 800 24 00 24, il nostro numero verde, messaggi che sono arrivati al 349 238 6666, per Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Uno è riguarda il Napoli, dicevamo, accennava a Giuseppe Rossi, la possibilità di prendere Giuseppe Rossi. E fra l'altro c'è Mirko, anche un po' francamente a me un po' hanno stufato questi dirigenti che un giorno dicono che vogliono giocare a Pechino, il giorno dopo dicono che a Pechino non vogliono giocare più, poi non riescono a organizzare il viaggio. Forse un po' di stabilità da questo punto di vista il calcio italiano dovrebbe averla. Claudio, ci sarebbe molto da discutere. Sì, troppo forse. I dirigenti del calcio italiano, o dello sport in generale, ma in particolare del calcio italiano, ma dovremmo veramente fare una puntata a parte. Ma naturalmente questo era un inciso solo per riferirsi al Napoli e a le possibilità che vedi per una buona stagione del Napoli l'anno prossimo. Ma guarda, il Napoli, sì, secondo me il Napoli, tanto la garanzia del Napoli è l'allenatore, che Walter Mazzarri, un altro di quegli allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre, che le fanno correre, che è una cosa importante nel calcio di oggi. Sono squadre, il Napoli forse è la squadra più europea del calcio italiano, e non a caso ha sfiorato la grande impresa in Champions League. La squadra più europea, me lo diceva Buffon tra l'altro, prima ancora che iniziasse la scorsa stagione, che proprio Buffon mi diceva che vedeva nel Napoli una squadra perfetta per affrontare le grandi d'Europa, perché è la squadra italiana con più gamba, è la squadra italiana con più ritmo, una squadra che sa sempre che cosa fare e che sta sempre bene fisicamente. Questo è un grande merito del suo allenatore e dello staff. Certo, è partito Lavezzi, che nel Napoli secondo me valeva almeno il 50%, però insomma sono molto curioso di vedere Insigne, sono molto curioso di vedere anche i nuovi accorgimenti tattici decisi da Mazzarri, con un Hamsik magari un po' più arretrato, con un gioco un po' più manovrato. Però ecco, in generale credo che il Napoli continuerà ad essere una bella realtà del nostro calcio, proprio perché la garanzia migliore ce l'ha in panchina. Un'ultima domanda veloce che è arrivata da Marina di Milano, dice: perché l'Inter non si riporta a casa il gioiellino Caldirola? Sì, ma magari una tifosissima di Caldirola. Più che dell'Inter, dici. Sì, è un buon giocatore Caldirola, perché, ma non penso che sia Caldirola il problema. No, assolutamente. Il problema dell'Inter. Assolutamente. Però mi piace questo anche un po' atteggiamento anche che c'è nei tifosi di cercare di valorizzare un po' i nostri giovani. Mirko, grazie, ti ho tenuto anche più di quel che dovevo, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Grazie a Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport, lo ritroveremo naturalmente nei prossimi giorni sempre su Radio 24, e andiamo a chiudere però tornando a parlare di Olimpiadi così come avevamo iniziato, e sentiamo quelle che sono state le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il nostro Capo dello Stato, che ieri era alla cerimonia di apertura, ha visitato naturalmente anche gli azzurri. Poi alcuni, diciamo, sono pronti per le medaglie e tutti gli altri sono pronti per competere con grande convinzione, nel senso di avere il senso della missione, perché è una missione importante per il Paese. Credo che non possiamo che avere bisogno di prove di quello che sappiamo fare di meglio in tutti i campi. E allora le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per incitare naturalmente i nostri azzurri. Dario Ricci, eccoci ancora di nuovo con te. Allora, è arrivata la prima medaglia, l'abbiamo detto, con la pistola 10 metri, la medaglia d'argento di Luca Tesconi. E adesso arriveranno le medaglie ormai sicure anche per quanto riguarda la scherma e poi naturalmente speriamo questa sera anche in Luca Marin. Eh sì, speriamo in Luca Marin, e poi non dimentichiamo, Claudio, anche la semifinale del tiro con l'arco a squadre uomini. Affrontiamo proprio in questi minuti il Messico, ma è pur vero che i riflettori sono puntati tutti su qui sull'Excel Arena, dove alle 19 italiane scenderanno in pedana la coreana Nam contro Elisa Di Francesca e poi alle 19.30 Arianna Enrico contro Valentina Vezzali. Direi che già questo, sì, quanto sia banale dirlo, è un risultato straordinario, perché il nostro fioretto femminile si conferma veramente il Dream Team. E sì, Dario, perché poi noi siamo abituati col fioretto femminile, con Valentina Vezzali in particolare, ma anche con tutte le giovani che poi sono cresciute sotto la sua ala, siamo abituati a essere lì, arrivare a vincere, ma è sempre davvero molto difficile, soprattutto a questi livelli. Abbiamo visto la fatica anche che ha fatto Valentina Vezzali. Assolutamente, ma sottolineiamo anche la prova, per esempio, di un esordiente, seppur matura, seppur campionessa, come Elisa Di Francesca. A 30 anni la prima Olimpiadi può far venire veramente le farfalle allo stomaco, e invece Elisa si è confermata ad altissimo livello e adesso si gioca un podio olimpico. E Arianna Enrico, che siamo abituati a considerare appunto la terza di questo terzetto straordinario, è lì in una semifinale olimpica, devo dire eccezionale veramente le ragazze a confermarsi a questo livello. Adesso però non bisogna accontentarsi, e credo che, diciamo, con la Vezzali sicuramente non corriamo questo rischio, no Claudio? Assolutamente, con lei assolutamente no, anche Jacques Roque l'ha detto, l'ha citata fra le atlete da vedere prima della Paralimpiade. Dario, ci ritroviamo domani dunque per commentare ancora questa Olimpiade, speriamo con tante altre belle notizie così come sono arrivate e arriveranno oggi. Grazie Dario, a domani. Naturalmente sentirete la voce di Dario Ricci all'interno dei programmi di Radio 24, dei nostri giornali. Chiudiamo con la Formula 1, perché Super Hamilton in Formula 1, pole position per Lewis Hamilton naturalmente nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. L'inglese della McLaren ha preceduto la Lotus di Grosjean e la Red Bull di Sebastian Vettel, poi ci sono l'altra McLaren di Button e la seconda Lotus di Raikkonen. Qualifiche difficili invece per la Ferrari, Alonso ha spuntato il sesto tempo davanti a Felipe Massa. Con questo è tutto, A Tempo di Sport torna domani dalle 17 alle 18, grazie a Giorgio De Luca in redazione e a Peter Bescapè in regia.